Silvano, coordinatore del Piemonte Orientale, si prepara Loris Cavalletti. Beh, credo di essere agevolato a intervenire quasi a metà percorso del congresso, dopo interventi di un certo spessore. E anche la relazione ha raccolto, credo, e fatto proprio il dibattito del congresso avvenute nelle diverse assemblee degli iscritti nei congressi territoriali. E anche se forte la tentazione in queste occasioni di parlare del mondo e di come dovremo affrontare tutte le tematiche di nostra competenza. Dovremmo tener conto di tutte le mozioni conclusive, così almeno siamo avvantaggiati dove ci riconosciamo in pieno. Io chiaramente faccio parte del Piemonte Orientale e quindi dove ha sintetizzato molto bene gli interventi che sono succeduti e la relazione che è stata fatta. E il nostro compito prossimo sarà quello di sperimentare tutte le forme possibili per coinvolgere i nostri iscritti, perché ho sentito non solo nel nostro congresso, ma anche qui, che dappertutto la partecipazione delle assemblee non è stata molto partecipata. E ci aggiriamo intorno al 2-3% degli iscritti. Nonostante abbiamo mandato come Piemonte Orientale anche il giornalino a casa tutti, forse non basta, ci vuole anche la lettera. E dovremo perseguire su questo. Quindi non possiamo limitarci comunque a fare le assemblee una volta ogni 4 anni, anche se sappiamo che è un costo. Come dicevo prima, spedire una lettera vuol dire più di 1 euro tra il francobollo, la lettera, la carta, le buste e quant'altro. E non possiamo, come dicevo prima, fare questo rituale solo di assemblee ogni 4 anni, ma dovremmo, e qua ritorniamo al discorso delle risorse, nel senso che bisognerebbe veramente non solo dirlo, ma farlo realmente, di spostare sia risorse umane, visto la riduzione da 5 a 3 segretari, sia risorse umane che anche quelle finanziarie alla prima linea, perché lì che noi abbiamo bisogno di fare proselitismo. Perché noi come pensionati poi alla fine chi ci fa gli iscritti? A parte se ci diamo dentro, voglio dire, a martellare e tenere aperte le nostre sedi, noi essenzialmente chi ci fa gli iscritti sono l'INAS e il CAP. Qualcuno faceva la proposta prima, o noi facciamo o finanziamo, noi la CISL, perché poi i risultati del proselitismo non è che rimangono solo ai pensionati, a tutti i livelli, a catena, voglio dire, quindi la tessera che si fa al recapito poi va al Piemonte Orientale, dei pensionati, al regionale, al nazionale, la quota all'USR, al nazionale e così via. Quindi è chiaro che tutti ci dobbiamo porre questo problema e vedere, ma in modo reale e subito, perché mentre abbiamo assistito, poi ho visto ormai in tutte le cartelle congressuali, siamo bravi a fare le analisi e quali sono le previsioni che non sono rose, perché poi vediamo che l'età media è vero che si allunga della vita, però è anche vero che voglio dire, in pensione la gente va sempre più tardi, si arriva verso i 70 anni, anche se noi abbiamo e rappresentiamo unitariamente solamente il 30% circa di tutti i pensionati attuali, non dico di quelli che ci andranno. Quindi vuol dire che noi dobbiamo lavorare di più sul territorio e quindi dobbiamo fare in modo di calare lì, quindi dobbiamo fare delle assise su questo per cercare di capire quale può essere zona per zona il sistema più idoneo per andare, voglio dire, ad avere un rapporto con gli iscritti. Noi siamo l'associazione che abbiamo più iscritti di tutte le associazioni italiane, dei partiti messi assieme, voglio dire, noi solo a Verbania abbiamo 3.000 iscritti, il PD che è il più grosso partito ne avrà un centinaio nemmeno, noi governa la città e poi magari non ci chiamano nemmeno. Quindi voglio dire, questo a tutti i livelli, regionale e nazionale. Perché? Perché noi non abbiamo, voglio dire, gli iscritti non sono nostri, gli iscritti sono più dei partiti. E quindi adesso ci accomuna un dopo anche, qualcuno l'ha detto anche prima, e dopo la denigrazione che c'è stata, perché poi basta poco per denigrare il sindacato e accumularli, voglio dire anche i partiti, dicendo che noi siamo quelli che prendiamo 300 milioni di pensioni, prendiamo le doppie pensioni, aspettative e quant'altro. Quindi è chiaro che dobbiamo adesso, come si può dire, rigarginarci, insomma dobbiamo cercare di dare un'impronta nostra diversa, che è un ritorno alle origini, come lo si è fatto vedere stamattina, ritornare a fare quello che una volta si faceva, perché non è vero che la gente non fa volontariato, la gente, se voi vedete dappertutto, vuol dire c'è la protezione civile, sono tutti pensionati, non i civici, non i vigili, chi più ne metta. Da noi abbiamo fatto, e questa è una grande occasione, non so se lo fanno in tutti i comuni, stanno facendo il bilancio partecipato, io ho partecipato e anche la CISL lì era presente, la CISL intesa come confederazione, alla presentazione del bilancio partecipato, dove in pratica il comune ha messo a disposizione 130.000 euro per dei progetti sulla coesione sociale, sugli eventi e quant'altro. Beh, anche lì noi potremmo, adesso siamo tardi, l'hanno chiuso il 30 settembre. Ero tentato, ho partecipato ed ero tentato di fare, quindi noi dovremmo sfruttare queste situazioni. Noi in questa tornata di assemblee che abbiamo fatto non siamo riusciti, purtroppo, ahimè, io sconto, do per scontato, io da 70 che sono iscritto al sindacato, ma sono stato iscritto nella Lombardia, ho lavorato sempre in Lombardia fino al 2012. Sono stato fuori 4 anni, adesso un anno, che la FNP di Verbania mi ha chiamato a cercare di dare una mano nell'RDS di Verbania. Quindi sconto anche questo, non conosco ancora bene come siamo organizzati, però anche lì dovremmo cercare, non solo noi come pensionati, a vedere di collocare un delegato per ogni comune, nei 21 comuni, io dico a Verbania, nei 21 comuni presenti, ma addirittura anche nelle 5 circoscrizioni. Dovremmo, e se non ci sono, ripristinare i dipartimenti e le zone. Io l'esperienza che avevo fatto a Varese era che c'erano i dipartimenti sulle diverse tematiche del sociale, la sanità, la scuola, gli asili e quant'altro, trasporti, e a livello intercategoriale. Dovremmo rilanciare quello che, e la chiudo perché non voglio portare via tempo altro, visto che ci sono pacchetti e quindi tralascio, do per scontato. Posso? 2 minuti. Perché sto andando a braccio con 2 minuti. E quindi dicevo che in pratica dovremmo ripristinare, se non ci sono, ripeto, io sconto il fatto che sono nuovo a lavorare a Verbania, anche se ho fatto una vita nel sindacato, ma di là in Lombardia. Quindi, e dovremmo avere più rapporto anche con le categorie degli attivi, quindi promuovere in modo reale, voglio dire, non solo a slogan, perché adesso dappertutto sento la questione della continuità associativa, poi scopro che, anzi, qualcuno invece dice, guarda che in tutti gli altri paesi del mondo in pratica i pensionati rimangono nelle categorie. Però se vogliamo dare una mano, però i problemi più grossi che noi abbiamo oggi sono due, il problema del sociale e il problema dell'occupazione per i giovani. Se noi non rilanciamo queste due cose qua, voglio dire, noi come sindacato abbiamo perso, voglio dire, il nostro obiettivo e il nostro modo perché viviamo. Quindi è chiaro che dobbiamo fare in modo che questi problemi vengano affrontati. Sul fisco, vado a flash perché non voglio veramente portare... sulla questione fiscale, anche lì è un problema grossissimo che riguarda noi che siamo pensionati e prossimo anche al problema di avere o la badante o la casa di cura. Una badante oggi costa sui 900 euro al mese e dobbiamo pagare, no, minimo, no, no, paga base, torna a badare, cioè, mia madre, quindi la CISA mi fa i conteggi, la badante convivente ti costa sui 900 euro al mese netti che dai alla lavoratrice. Ogni mese devi pagare 224 euro di contributi previdenziali che non avranno nessun, voglio dire, riscontro, perché queste la maggior parte sono extracomunitarie, che hanno già una certa età, non riusciranno magari a fare 20 anni nemmeno di contributi, vuol dire dove non c'è nemmeno un ritorno. Quindi anche questo è un problema che bisognerebbe affrontare. Grazie, buona continuazione.